E non estingo adesso fredda tema importuna i vostri ardori. Perdono al genio e all'età perdono. Perdono io non vorrei se offeso avessi l'onor tuo. L'onor mio, un volontario esilio quindi prendea. Tacete, che più del vostro amore la discolpa mi offende. Col non amar Roberto, rea saresti o Costanza, e tu più reo se da lei ti dividi. Proseguite ad amarvi e siate fidi. Non mi inganno, lo credo. Ormai scacciate